Parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato e solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa. E allora, bentrovati, bentornati a tutti gli amici ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Siete sempre qui, nello spazio radiofonico della stampa rassegnata, sotto cartella, sotto sezione della trasmissione più generale Passaggi a Nord-Ovest. Sperando che ci stiate ascoltando in onde medie, alla modulazione di frequenza dell'1359, le frequenze in onde medie liberate da Radio Wombat da pochi mesi, oppure che ci stiate ascoltando in streaming attraverso internet, attraverso il sito di Radio Wombat, nella diretta di oggi, lunedì alle 15.30, oppure nelle repliche che andranno in onda martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sempre alla stessa ora, sempre alle 15.30. Eventualmente, se ci state ascoltando con ritardo, un saluto anche a voi che state o avete scaricato il podcast, che solitamente carichiamo il mercoledì, ma non è necessariamente una ritualità o un obbligo. Questa settimana ci muoviamo tra notizie e avvenimenti di cronaca che andranno dal lunedì 16 aprile fino alla domenica 22. Ci muoveremo in un ordine che non è necessariamente cronologico, tant'è che, appunto, fatti i saluti rituali e ricordato le modalità nelle quali ci potete trovare ad ascoltare, vorrei cominciare con una notizia sicuramente importante. Scusate, colpettino di tosse, il bello della diretta. Una notizia sicuramente importante per le vicende sulle quali abbiamo concordato e deciso di porre l'attenzione in maniera prioritaria all'interno di questo spazio radiofonico, cioè la questione legata alle due resistenze popolari, quella contro la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini e quella contro l'ampliamento, allargamento, costruzione del nuovo aeroporto intercontinentale di Peretola, e più in generale tutte le vicende legate alle grandi opere declinate quando e laddove ci riesce ed è possibile nei termini degli aspetti legati alla materia energia. Questa settimana ci svegliamo e da un giornale del 18 aprile, notizia che hanno riportato ovviamente tutte le cronache locali, io la prendo da La Repubblica semplicemente perché Franca Selvatici, che firma l'articolo, ha scritto un buon testo che possiamo leggere sforbiciandolo da alcune cose marginali per dare una buona informazione su quello che è successo. Quindi dal mercoledì 18 aprile sappiamo dalle cronache che c'è stato una ennesima, chiamiamola così, inchiesta contro Alia, la società appunto che gestisce i rifiuti, che ha sostituito, come ricorderete, Quadrifoglio, che non esiste più, ora c'è Alia, Quindi, insomma, sono la stessa cosa per chi giustamente si dovesse ricordare il quadrifoglio come società di gestione dei rifiuti della nostra area metropolitana, è stata semplicemente sostituita da Alia. Se vi guardate in giro, hanno provveduto più o meno al cambio del logo e delle scritte, sia sui cestini che sui mezzi della raccolta che sui cassonetti, però a volte è sopravvissuto anche ancora qualche scritta quadrifoglio, quindi è sempre giusto e doveroso riportarlo perché non è detto che chi ascolta segua con particolare attenzione queste vicende. Quindi, per ridirlo sinteticamente, ex quadrifoglio oggi è Alia. Bene, c'è stata questa ennesima inchiesta sulla gestione dei rifiuti e Repubblica titola e scrive: sequestri a case Passerini, sotto accusa c'è il biogas. Dall'impianto sarebbero stati emessi microinquinanti. 10 indagati. Diciamo dal punto di vista tecnico qual è la questione? La questione è che è imputato ad Alia la fuoriuscita di biogas, appunto, dall'impianto di Case Passerini dovuta a un, diciamo, malfunzionamento, cioè l'impianto di Case Passerini ha un cogeneratore che dovrebbe servire a generare energia elettrica dalla produzione che la componente organica dei rifiuti fa di metano. Però questa quantità di metano, secondo Alia, sarebbe stata insufficiente a far funzionare il cogeneratore e al momento delle ispezioni da parte di ARPAT erano invece accese l'impianto di smaltimento del biogas di emergenza, che è costituito semplicemente da torce, cioè praticamente, come tutti sappiamo, dato anche il fatto che il metano è un elemento, un gas che è entrato fortemente nelle nostre vite quotidiane ormai da 30 anni. E sappiamo che è un gas ovviamente altamente infiammabile e quindi una forma di smaltimento di questo metano proveniente dalla degradazione della componente organica dei rifiuti è fatta a mezzo di fiamma. Viene fatto bruciare e quindi viene disperso. Che succede? L'aspetto tecnico, come spesso avviene in queste questioni, è molto rilevante perché la temperatura a cui questo gas dovrebbe bruciare per eliminare con esso anche, diciamo, altre molecole inquinanti e dannose per la salute è circa 850 gradi. Invece, nell'impianto di Case Passerini, questa temperatura di combustione non veniva raggiunta e quindi il gas non veniva del tutto bruciato e con esso portava, disperdeva e diffondeva microinquinanti nelle zone urbanizzate adiacenti a Case Passerini. È esperienza quotidiana di chi ci ascolta e vive dalla parte sostanzialmente di Campi Bisenzio che dall'impianto di Case Passerini salgono degli odori abbastanza forti, penetranti e inconfondibili, nel senso che provengono appunto dalla discarica e sono risultati della degradazione della materia organica. E da questa esperienza quotidiana legata appunto alla percezione dell'odore, sappiamo che in tranquillità possiamo dire e sappiamo che i gas, ciò che esce da Case Passerini, arriva tranquillamente al centro di Campi, insomma, fino alla coppa di Campi, le folate da Case Passerini si possono sentire. Questa è la dimostrazione che, ecco appunto, l'indagine legata appunto a questo tipo di emissioni è sensata, insomma, non è tirata via. Scusate ancora, vado a leggervi l'articolo perché dopo aver, diciamo, tra virgolette, riassunto e sintetizzato l'aspetto tecnico che dà il via alla vicenda, c'è questo, ma non c'è solo questo. La gestione dei rifiuti urbani da parte di Alia, già quadrifoglio, lo dice anche l'articolo, è piena di magagne. Lo rivelano chi? Non i comitati, ma le ispezioni dell'ARPAT e le indagini dei carabinieri forestali e della polizia provinciale. Che succede? Non è la prima volta perché si susseguono i sequestri degli impianti. In dicembre, chi se lo ricorda, anche se non avevamo cominciato le nostre stampe rassegnate, probabilmente ne avevamo parlato in altri spazi radiofonici, in dicembre era toccato al TMB, l'impianto di trattamento meccanico biologico. TMB è la sigla di trattamento meccanico biologico, che dai rifiuti di origine vegetale e animale ricava il cosiddetto compost. Il compost conteneva plastica, vetro e metalli, in percentuali superiori a quelle ammesse dalla legge. Ieri invece, cioè il martedì 17, questo articolo di mercoledì 18, sono stati eseguiti altri tre sequestri preventivi. Il primo riguarda l'intero impianto per la gestione del biogas all'interno della discarica di Case Passerini. Ne abbiamo parlato. Secondo le ipotesi di accusa, a causa del malfunzionamento dell'impianto sono stati emessi in atmosfera e sono ricaduti nelle aree urbanizzate circostanti, fra il 2016 e il 2017, circa 40.000 metri cubi di biogas contenente microinquinanti. Quindi i sigilli sono stati posti inoltre a quattro laghetti, sprovvisti di impermeabilizzazione, nei quali finiva, secondo le accuse, il percolato prodotto dalla discarica dismessa di Bosco ai Ronchi, nel comune di San Piero a Sieve, con, ovviamente, pericolo di inquinamento della falda acquifera. E questo è il secondo. Il terzo provvedimento di sequestro riguarda tre autocarri e due rimorchi della società Euro Corporation di Firenze, che si occupa dello smaltimento di diverse categorie di rifiuti raccolti da Alia ed è sotto inchiesta per la gestione di elettrodomestici fuori uso contenenti clorofluorocarburi, i famosi CFC. Che apro una piccolissima parentesi, intorno a chi ha una quarantina d'anni ricorderà sicuramente tutta la campagna che si sviluppò in Italia, ma non solo, fu una campagna planetaria. Tra l'altro, sarebbe anche interessante fare un approfondimento perché costituisce un esempio rilevante dei tempi di reazione planetari di fronte a problemi appunto planetari. Comunque, non è questo il momento. Comunque, chi ha una certa età si ricorderà tutta la campagna legata ai CFC che per appunto aspetti legati alla chimica di queste particelle prodotte e immesse nell'aria erano tra i principali responsabili del buco nell'ozono. Quindi i clorofluorocarburi che ancora si usano in alcuni impianti di refrigerazione, compresi alcuni frigoriferi domestici, venivano trasportati da questa azienda in appalto, la Euro Corporation di Firenze, che per Alia smaltisce appunto alcune tipologie di rifiuti tra elettrodomestici, tra cui anche frigoriferi con clorofluorocarburi. Che succedeva? Secondo le ipotesi di accusa, queste apparecchiature, classificate come rifiuti pericolosi ovviamente, venivano dislocate sui rimorchi o sugli autocarri in luoghi privi di autorizzazione. Quindi, diciamo, viene imputato a questa azienda in appalto di Alia e quindi anche ad Alia che dovrebbe controllare l'appalto e appunto l'esecuzione del lavoro, diciamo, a regola d'arte da parte delle sue ditte appaltatrici, il fatto che appunto venivano trasportati senza seguire norme di ovvia sicurezza, cioè venivano tirati sopra questi autocarri e poi portati in qua e là a seconda del viaggio dei rifiuti, come lo definisce Alia. In tutto, gli indagati per vari reati connessi alla gestione e al trasporto dei rifiuti sono 10. Fra di loro c'è anche l'amministratore delegato di Alia, Livio Giannotti. Ecco, questa in sostanza è la notizia, direi ben riassunta dall'articolo appunto di Franca Selvatici. Tra questi chiaramente c'è anche l'ultimo nome che ho citato, l'amministratore delegato Livio Giannotti, che un po' come Cioni è ricorso anche in alcuni stencil che dicono Giannotti ti odia, perché in effetti Livio Giannotti è da sempre uno dei principali protagonisti della vicenda legata alla proposizione dell'inceneritore di Case Passerini e quindi per certi aspetti fa anche un po' piacere, essendo il nostro punto di vista un punto di vista assolutamente partigiano ed anti-inceneritorista, vedere l'incapacità manifesta di questa dirigenza aziendale che continuamente viene colta in fragranza, in fragrante e in fragranza. Diciamo sono risate amare quelle che ci possiamo concedere, perché ovviamente di tutto il malfunzionamento della gestione di infrastrutture assolutamente prioritarie delle nostre società urbanizzate e metropolitane ricadono poi su noi stessi. Quindi diciamo c'è anche poco da ridere, nonostante diciamo un certo gusto nel vedere che coloro che ce l'hanno sempre con noi, inteso come comitati, come movimenti, come coloro che tentano e ipotizzano altre proposte e alternative per la gestione dei rifiuti, vederli colti in flagrante. Dall'altra parte, ovviamente, ripeto, c'è ben poco da ridere perché questi microinquinanti poi ce li respiriamo, oppure i rifiuti tossici ce li troviamo tra le scatole, oppure ci vediamo i percolati entrare nelle falde acquifere acque con le quali poi ci laviamo, oppure le beviamo e quant'altro, oppure vengono bevute dai nostri animali che poi ci rimangiamo, creando quello che ovviamente è un ambiente di vita del tutto pieno di nocività e delle quali non ci libereremo mai, né noi né probabilmente facilmente neanche le future generazioni. Quindi questa è l'inchiesta a questa girata, probabilmente, mettiamola così, c'è anche da cogliere all'interno di questa vicenda un aspetto come sempre politico, nel senso che per esempio la vicenda del compost che era l'impianto di trattamento meccanico-biologico di case Passerini, dal quale viene fuori il compost che Alia o è anche già Quadrifoglio vendeva. Era notorio che contenesse plastica e metalli. Chiunque avesse comprato un sacco di compost di case Passerini sapeva che ci avrebbe trovato un po' di vetro e di metallo in modo notevole. Questo per dire che era una vicenda nota sulla quale poi le indagini ci sono state solo dopo molti anni. Lo stesso credo si possa tranquillamente dire per le indagini che sono scattate su queste altre due vicende, quella dei frigoriferi diciamo buttati sui camion e quella del cogeneratore spento e quindi della dispersione dei biogas, che sono cose che di sicuro gli enti competenti come ARPAT avrebbero potuto sapere con tempi molto più brevi di così. Molto probabilmente tutto questo va inserito, come dicevo, dentro la vicenda del tentativo da parte di Rossi, che consideriamo più o meno serio, di rivedere la questione dell'inceneritore, appunto la questione della proposta dell'inceneritore di Case Passerini, che ad oggi è ancora ferma, sulla quale è calato un silenzio anche abbastanza misterioso, ricordiamolo così come passaggio, che dopo la sospensiva fatta dal TAR che accolse il ricorso presentato dai comitati contro le scorrettezze procedurali nelle pratiche di autorizzazione presentate dalla società Q-Termo, formata da Alia e da Hera SPA. Da lì in poi, appunto, l'iter si è fermato, fino a che poi c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che dovrebbe essere uscita ormai da tempo, ma non è pubblica. Il 19 di dicembre del 2017 il Consiglio di Stato si riunì per fare la sentenza e ad oggi ancora questa sentenza non è aperta. Pensiamo, quello che appunto la riflessione che facciamo all'interno delle reti dei movimenti è che prima le elezioni nazionali avessero imposto un clima di silenzio tale per cui non conveniva a nessuno far uscire la sentenza del Consiglio di Stato, né che fosse favorevole ai comitati, né che fosse favorevole ai proponenti l'inceneritore. Si è poi sovrapposta la vicenda politica legata appunto a Rossi, che come presidente della regione ha messo fortemente in discussione il progetto di inceneritore di Case Passerini. Ad oggi è possibile anche che queste indagini vogliano rappresentare un altro colpettino che viene dato alla dirigenza inceneritorista, ripeto, rappresentata da Livio Giannotti, di Alia, colpire la dirigenza inceneritorista per colpire in qualche modo l'inceneritore. La vicenda, ripeto, non ci entusiasma più di tanto perché sappiamo quanto inceneritore e aeroporto siano due infrastrutture legate tra di loro e infatti nel posizionamento politico del presidente della regione Enrico Rossi c'è l'idea di liberare la piana dall'incombenza e dagli inquinanti dell'inceneritore per invece aprire la piana alla costruzione dell'aeroporto intercontinentale. Posizionamento politico che ci consola ben poco perché sappiamo che anche da un punto di vista della salute e dell'impatto proprio degli inquinanti sulla salute umana, un aeroporto intercontinentale che andrebbe ad aumentare in modo considerevole sia il numero di atterraggi e decolli quotidiano, si calcola dal master plan presentato a Toscana Aeroporti che sarebbero circa un decollo atterraggio ogni 4 minuti, e che prevederebbe la possibilità di atterraggio e decollo di aeromobili sempre più grandi, non è una vicenda da poco, sia in termini di dispersione di microinquinanti simili a quelli che si stanno prendendo in considerazione in questa indagine contro Alia, sia in termini di CO2, che rappresentano, come sappiamo, una assoluta priorità globale e che tutti i protocolli e tutte le legislazioni e tutti gli accordi che vengono fatti a livello diciamo internazionale e diciamo, della comunità internazionale dei paesi che cercano di collaborare tendono a ridurre. E invece un utilizzo sempre più massiccio degli aerei in modo molto discutibile anche per tratte tutto sommato neanche troppo lunghe, ma che per una politica del low cost e per giochi del mercato stanno diventando a volte più convenienti, a volte più comodi o a volte l'unica alternativa per i viaggi anche di tipo nazionale. Pensiamo per esempio alle tante persone che vivono al nord e invece risiedono o sono originarie del sud, che nelle vacanze nelle festività natalizie, pasquali o d'estate, per scendere sono effettivamente costrette o per costi o per viaggi della speranza legati all'impossibilità di trovare infrastrutture adeguate in termini di treni, autobus o mezzi su terra, sono costrette a prendere gli aerei. Cosa che appunto poi rende l'aereo e l'aeroporto un elemento di trasporto pubblico in una dinamica direi del tutto pazzesca da un punto di vista invece del consumo di energia e dell'impatto ambientale. Comunque, appunto, ripetiamolo, il gioco di tolgo l'inceneritore, metto l'aeroporto, che sta proponendo Rossi, è una delle punte più, in qualche modo, più avanzate, più pericolose dei ragionamenti e delle strategie dei nostri avversari, proprio perché rischia di diventare, in qualche modo, di essere preso a livello popolare come una forma di realismo, cioè a questo ci dobbiamo stare. Noi riteniamo che non dobbiamo sottostare a nessun tipo di ricatto, neanche a ricatti di questo genere. Quindi, ben vengano laddove ci sono delle infrazioni, anche delle indagini da parte delle autorità competenti. Ci auguriamo e speriamo che, gli enti che dovrebbero vigilare lo facessero non solo legati a, momenti e contingenze politiche, ma facessero il loro lavoro, continuamente, al quale, no, non si affianca, o meglio, le sue. Supera in avanti le proposte dal basso dei movimenti e delle associazioni e degli abitanti autorganizzati che, per esempio, si sono ritrovate anche all'inizio di quest'anno nel tentativo di un primo incontro regionale insieme qui a Firenze, sempre nell'area di Villa Montalvo, sede ormai di diversi incontri di questo genere, per discutere delle possibilità di un nuovo piano dei rifiuti regionale, del quale abbiamo sicuramente bisogno e che vogliamo in tempi brevi e che contenga in sé la cancellazione non solo dell'inceneritore di Case Passerini, ma che non venga neanche in mente di chiudere col progetto di Case Passerini per poi però spostare o aumentare le quote di combustione in qualche altro inceneritore. Anche questo è un pericolo nascosto nella posizione di Rossi, è diciamo, il posizionamento politico che caratterizza in questo momento la giunta di Biffoni, Matteo Biffoni a Prato, che si è schierata al contrario di Rossi contro l'aeroporto, tant'è che appunto la giunta Biffoni ha fatto un ricorso, sicuramente un ricorso abbastanza compatibile e normalizzato, un ricorso legato alla vicenda dell'esclusione del comune di Prato, come di tutti gli altri comuni della cintura metropolitana fiorentina, dall'osservatorio ambientale, però insomma ha fatto il ricorso. Dall'altra parte però dice che la priorità per la Piana e ovviamente per l'imprenditoria pratese, soprattutto quella legata al tessile, è l'inceneritore, aprendo e occhieggiando a un'ipotesi pericolosa che è quella di aumentare, ampliare le capacità di combustione dell'inceneritore già presente ad oggi di Baciacavallo a Prato. Quindi, insomma, vediamo che la scacchiera sulla Piana è ancora molto aperta e quindi queste indagini su Quadrifoglio, o meglio Alia, come ho già spiegato, sono interessanti, però vanno guardate anche in questi termini e quindi andiamo avanti, insomma, con la lotta e noi dall'altra parte andiamo avanti con la nostra cronaca. Beh, sempre dallo stesso giornale, quindi sempre da Repubblica e sempre dal 18 aprile, una notizia che tra l'altro è proprio a fianco a quella di cui abbiamo appena parlato dei sequestri di Alia. La sicurezza. Il graffito è abusivo? Segnalalo ai vigili urbani con l'app SecureU. La faccio breve, praticamente il comune di Firenze, o meglio la Polizia Municipale di Firenze, ha attivato una simpatica e molto smart applicazione per gli smartphone che si chiama SecureU, con la U, appunto sarebbe SecureU, però non è una parola romena, ci mancherebbe che finisce in U, ma è SecureU all'inglese. A cosa serve? Serve a far sì che i buoni cittadini, quelli probi, quelli sempre pronti a dare buoni consigli e non cattivi esempi, possano segnalare le infrazioni più disparate alla pubblica moralità o al decoro urbano ai vigili urbani. Quindi, per esempio, tra gli esempi citati dall'articolo, che saranno probabilmente presi dalla stessa applicazione o dalle presentazioni che ha fatto la Polizia Municipale di questa appunto simpatica applicazione, si legge che si può segnalare in tempo reale ai vigili se qualcuno occupa illegittimamente un posto auto riservato agli invalidi, se su un muro cittadino ci sono graffiti abusivi, se vengono trovati veicoli abbandonati, ma anche se si è a conoscenza di una violenza di genere. Ecco, insomma, che non si aggiunge molto se non. In fondo, chi voleva far rimuovere una macchina fino a anche nell'epoca dei telefoni a gettoni che io ho conosciuto e di cui ricordo, poteva chiamare i vigili. Quindi, da questo punto di vista, non si aggiunge molto. Quindi, l'aspetto è molto più retorico e di immagine che non di sostanza. Però, siamo sempre nel solco ormai ben dissodato da parte della giunta comunale fiorentina e non solo, della tentativo in qualche modo di mobilitare le masse nella difesa del appunto di quello che viene erroneamente, in modo del tutto ideologico e come costrutto sociale in mano, come più volte abbiamo ripetuto, ai più forti, il tentativo appunto di mobilitare le masse intorno a questi obiettivi. C'è probabilmente anche il tentativo di contenere le aperture che con il decreto Minniti abbiamo visto fare rispetto alla questione della sicurezza partecipata, nella quale poi rischiano di infilarsi gli impresentabili, che, come abbiamo visto già in alcune notizie che abbiamo commentato anche da questi microfoni, ma che sono state oggetto di indagini ben più approfondite da parte di altri, per esempio nella vicenda di Borgunto, quella che giornalisticamente è stata definita Borgunto, ma che in realtà è Via De Neri, legata alla vicenda dei Panini, la formazione di questi corpi di vigili per la sicurezza, del tutto privati, messi in piedi per iniziativa di alcuni commercianti, il cui curriculum, tra l'altro, anche angosciantemente curioso, direi. Quindi, nel tentativo anche di contenere quelle che possono essere alcune spinte ordiniste che possono poi sfuggire di mano alle amministrazioni, c'è il tentativo di piegare, distorcere la cosa e di contenerla all'interno dell'idea della cittadinanza che si mobilita, sì, ma si mobilita non per sopperire o surrogare le funzioni di pubblica sicurezza di cui lo Stato vuole continuare ad avere il monopolio, ma le affianca nella gestione dell'ordine pubblico, e questa mi sembra che sia proprio un'iniziativa che va in questa direzione. È un'iniziativa che in qualche modo mette fortemente diciamo in primo piano l'utilizzo delle nuove tecnologie, l'utilizzo appunto del tempo reale, della possibilità che tutti parlino, collaborino e dicano la loro, tecnica ovviamente messa a disposizione appunto dalle nuove tecnologie, che fa pandan e va di pari passo, per esempio, con un'altra iniziativa che ha preso il comune, che è quella di Chattalabuca, cioè non contenti diciamo, del vassallaggio di Repubblica, che aveva attivato chiamiamolo così, il servizio di adotta La buca del cuore, c'è il tentativo da parte di Repubblica di farsi strumento dell'amministrazione comunale, recependo da parte dei cittadini denunce rispetto a buche clamorose dovute al maltempo, o forse anche allo spargimento del sale in funzione antigelo e antineve di quest'inverno, che hanno ridotto le strade fiorentine un colabrodo, chiaramente una di quelle cose che impattano sulla mentalità media. Repubblica si era offerta e continua a farlo, attivando questa campagna Adotta la buca. Nel frattempo, il comune ha deciso di attivare un altro servizio, facendo sempre un'altra app che si chiama Chatta la buca, dando la possibilità a tutti di segnalare la buca e promettendo che attraverso la celere segnalazione da parte degli abitanti, il comune risponderà coprendo le buche segnalate. Quindi, ancora una volta, siamo all'interno di questo tipo di rapporto che l'amministrazione vuole istituire col cittadino, che non è più, diciamo, un rapporto collettivo tra amministrazione e comunità degli abitanti, ma è quasi un rapporto individualizzato in cui si risponde alle richieste del singolo individuo. Cioè, io vorrei che tu mi coprissi questa buca e io, sindaco Nardella, che succedo a un sindaco che era Domenici, che aveva già come slogan nella propria campagna elettorale il sindaco da guardare negli occhi. Quindi, insomma, sono tecniche di governo e di governance che si vanno affinando, ma che hanno radici comunque profonde, sono di lungo corso, sono trasformazioni di lungo periodo delle forme dell'amministrazione e della governance. Quindi, comunque, io, sindaco Nardella, vengo a coprire la buca che tu, singolo abitante, mi stai segnalando, cercando di costruire un rapporto che in qualche modo è anche intimo, personale, amicale, e niente, insomma, siamo all'interno di trasformazioni appunto della politica che cerca di sopravvivere a se stessa in tempi di crisi della rappresentanza molto forti e cerca, come appunto sto cercando di in qualche modo di esplicitare attraverso questi due esempi di queste applicazioni, cerca un rapporto personale proprio perché ha capito e ha verificato, toccandolo con mano, che la vecchia politica, la vecchia classe politica, il vecchio modo di fare politica in qualche modo cattedratico non paga più. Tant'è che, così per fare un accenno, una parentesi quadra o graffa all'interno del discorso che facciamo, anche una delle possibili chiavi di lettura delle elezioni nazionali che abbiamo visto, forse è anche questa. Cioè, in qualche modo le elezioni hanno visto una condanna della vecchia classe politica, del suo vecchio modo di fare politica, per premiare coloro che riescono e hanno saputo porsi anche su un piano innovativo da un punto di vista dei linguaggi e da un punto di vista dell'uso anche delle tecnologie. Quindi i 5 Stelle, che nascono all'interno proprio di un vero e proprio mito della rete attraverso la piattaforma Meetup messa a disposizione da Casaleggio e tutta la vicenda che più o meno conosciamo, ma o anche non conoscendola non posso in questo momento approfondire, e dall'altra parte Salvini che sensazionale nelle sue uscite, radicale nel dire le cose, con un modo di porsi in qualche modo giovanilistico che spiazza la vecchia politica, pur essendo di fatto entrambe le forze politiche di cui si sta parlando, sia i 5 Stelle che la Lega di Salvini, poi tutto sommato delle forze restauratrici, perché alla fine non ci sarà particolare messa in discussione dello stato di cose presenti e neanche riusciranno a dare seguito a quelle che sono state le loro dichiarazioni propagandistiche. Ciò non toglie che, insomma, la questione dei linguaggi e del rapporto tra amministrazioni, governance e cittadinanza e quindi abitanti si sta evolvendo anche in questa direzione. E quindi queste applicazioni che tentano di mobilitare le masse, ma di mobilitarle non per attivarsi realmente, ma semplicemente per fornire elementi di maggiore governo e stabilità ha il potere costituito. Le guardiamo con sospetto e quindi ovviamente invitiamo tutti a non segnalare assolutamente niente, tenendo anche conto che appunto poi per quanto riguarda questa notiziola e l'applicazione SecureU, l'unica cosa nuova forse è la segnalazione dei graffiti abusivi. E tant'è che lo coglie anche l'articolo di Repubblica che titola proprio così: il graffiti abusivo, segnalalo ai vigili. E quindi dopo queste riflessioni sulle forme della governance neoliberista, andiamo avanti sulle nostre vicende e diciamo andiamo in chiusura di trasmissione, diamo alcune notizie flash per una settimana che è stata sicuramente notevole dal punto di vista del pressing mediatico e dell'iniziativa dei nostri avversari nel campo e nel tema delle infrastrutture. Alcuni flash, uno è la questione dei pali in centro, apparsi a dir loro magicamente e misteriosamente, come se ci fosse stato un complotto da parte dei pali della tranvia per sorgere improvvisamente dal terreno, appunto una vicenda che sicuramente avrete visto dalla Nazione alla Repubblica, al Corriere, ai social media si rincorrono, si rimpallano le dichiarazioni degli esperti, sono stati messi in mezzo più tipi appunto di competenze e di saperi, dopo l'intervento del soprintendente Pessina o Pessina, che non ho ancora esattamente capito qual è l'accentazione del suo cognome, che comunque insomma ha posto la questione della tutela e deturpamento del paesaggio da cartolina della zona, diciamo, di Santa Maria Novella, funestata da questi pali. C'è stato per almeno una settimana, se non 10 giorni, che va avanti questa bagarre mediatica che ovviamente, come quasi tutte le vicende che avvengono all'interno delle mura e del centro storico fiorentino, ha una sovraesposizione mediatica spaventosa, condiziona e piega intorno a sé appunto il dibattito che gli opinion maker attraverso i media mainstream impongono alla popolazione. Quindi gli abbiamo dedicato quasi nessuna attenzione fino ad ora, facendone per forza però un accenno, proprio perché è una vicenda, credo, di una piccineria, di un provincialismo che pesa come un macigno sull'area metropolitana fiorentina, e appunto questo tipo di approccio e di scarsa e limitatissima visione delle cose è un fardello che pesa sugli abitanti di Firenze, che a fatica tentano da anni di liberarsene attraverso altre esperienze di aggregazione e anche altri media, per esempio questo spazio radio nostro, senza autoesaltare nessuno, è proprio il tentativo di andare per lo più a cercare voci all'interno dei quartieri attraverso la più ampia trasmissione Passaggio a Nord-Ovest, e anche la stampa rassegnata cerca di gettare un occhio e punti di vista di riflessione su fenomeni che non siano solo ed esclusivamente legati al centro di Firenze. Per l'appunto questa vicenda che ha funestato le cronache locali e che ha dell'assurdo, come dicevo, proprio per non tanto per quello che ormai è successo, perché probabilmente la cosa non è più in nessun modo toglibile dalle mani dei proponenti l'opera, quindi della Giunta Nardella. È uno spazio nel quale, ahi noi, non abbiamo avuto neanche, dobbiamo dircelo insomma senza vergogna e senza sensi di colpa, non abbiamo avuto come movimenti e come aggregati di lotta e di auto-organizzazione di abitanti nei nostri tessuti metropolitani la capacità di intervenire da subito, e purtroppo la questione della tranvia la stiamo subendo completamente e complessivamente. La subiamo anche in questo offensivo dibattito di voci mainstream che appunto cadono dal cielo e dal pero, quando in una società in cui le simulazioni fanno parte integrante di ogni tipo di progettazione, nessuno sapeva o nessuno si era accorto che ci sarebbero stati tanti, tanti tram. Poi il dibattito diventa ancora più insopportabile quando si parla delle alternative, perché è tutto un fiorire di soluzioni tecnico-tecnologiche, quindi l'alimentazione da terra oppure le batterie che si autoricaricano, cioè cose che tra l'altro è davvero triste, ma provando a trasformarle in uno spunto colto e in un suggerimento per voi tutti i lettori, possiamo tranquillamente dire che ci sono soluzioni tecniche che avrebbero potuto essere adottate e che in Italia, tra l'altro, come in altri paesi paesi d'Europa e del mondo sono già state adottate, per esempio, negli anni 20-30. Quindi è un secolo fa che già conoscevamo i filobus, già conoscevamo le batterie a ricarica, già i mezzi pubblici avevano la capacità e la possibilità di autoricaricarsi nei tratti in cui era impossibile o difficoltoso l'alimentazione diretta attraverso cavi o binari. Tutto questo avveniva già negli anni 20-30, come ricordo, e per esempio un interessantissimo libro di Marino Ruzzenenti dal titolo L'autarchia verde, un involontario laboratorio della green economy. È un tentativo senza nessunissima ambiguità o nostalgia per il regime fascista che è più volte nel libro condannato per appunto l'aspetto imperialistico, razzistico, classistico che ha caratterizzato quel regime, però guarda alle soluzioni che gli scienziati di allora, pur all'interno di questo contesto assolutamente da condannare, trovarono per fare i conti con un paese come l'Italia che di combustibili fossili ne aveva ben pochi e che fu costretta, come molti altri paesi, in anni di protezionismo, di dogane, dazi e competizione nazionale che poi sfociarono nella Seconda Guerra Mondiale, oltre a venire già dalle contraddizioni interimperialistiche della Prima Guerra Mondiale, soluzioni tecniche che venivano e vennero trovate per ridurre i consumi, fare a meno dei combustibili fossili, in qualche modo fare i conti con la possibilità di fare con quello che c'è. Per dirla in modo molto semplice, ve lo consiglio proprio per guardare, per avere la misura di che tipo di piccineria sia quella di progettisti, di decisori pubblici che a un secolo di distanza da quelle soluzioni si muovono e parlano continuamente, giocando poi con i soldi pubblici con i quali hanno prima installato i pali e con i quali eventualmente li rimuoveranno, li ridipingeranno o cambieranno idea. E tutto sulle nostre spalle e con il sudore delle nostre fronti. Questo era per quanto riguarda appunto la vicenda della tranvia, sulla quale boh, probabilmente inevitabilmente dovremmo tornare. C'è poi una notizia che avevamo già dato, che era diciamo la denuncia di alcuni urbanisti illuminati che lottano a Firenze da anni sulla questione della modifica al regolamento urbanistico e l'apertura alla ristrutturazione edilizia limitata, così come poi è andata a configurarsi. La denuncia che avevamo già dato nella stampa rassegnata scorsa, perché sarebbe andato appunto in discussione in commissione urbanistica. La discussione c'è stata, come purtroppo era anche troppo facile scommettere e aspettarsi, il Partito Democratico, che ha i numeri in giunta per fare sostanzialmente quello che vuole, è andato all'approvazione. La vicenda non la sto a riassumere per ragioni di spazio e anche così per creare un certo rimando tra una trasmissione e l'altra. Chi vuole può ascoltare il podcast dell'ultima stampa rassegnata, nella quale avevo dato lettura di un articolo apparso su uno dei giornali locali firmato da Ilaria Agostini, che aveva, tra virgolette, guidato la protesta e la denuncia appunto su questa vicenda. E, diciamo, l'assessore Bettarini si spertica in tentativi di giustificazione dicendo continuamente che non è vero che allarghiamo le maglie dei controlli, che allentiamo i vincoli sugli edifici. La ristrutturazione edilizia limitata è di fatto equiparata al risanamento conservativo e bla bla bla. Quindi continuamente di dire che non si potranno modificare eccessivamente gli edifici, ci tiene a dire che non si potranno togliere gli androni e le scale, ma d'altronde la denuncia e l'aspetto critico che veniva sottolineato e continuiamo a sottolineare su questo tipo di modifica al regolamento urbanistico non è stato mai quello di vedere particolari preoccupazioni per la demolizione di scale o di androni, ma in caso quello della possibilità che questa variante al regolamento urbanistico concede ai proprietari, ovviamente si sta parlando di grandi e grandissimi proprietari immobiliari che in possesso di edifici storici potranno modificarne l'assetto delle stanze interiori per affini sostanzialmente turistici e ricettivi, cioè quelli che erano magari case possono diventare alberghi, quelli che erano alberghi possono diventare mini appartamenti e via di questo passo. Quindi questo è da intrecciare ovviamente fortemente con la trasformazione sempre più profonda della città in senso turistico e mercificato ed è un regalo alla rendita e lo resta a prescindere dalle dichiarazioni e dalle giustificazioni che l'assessore per conto della giunta sta cercando di dare e di cui appunto ho letto delle parti da un articolo di Repubblica del 17 aprile. Finiamo e non possiamo purtroppo per voi, si fa per ridere, ritornare sulla questione dell'aeroporto perché proprio in questa settimana è uscito da parte della Confindustria locale, niente po' di meno che dalla Confindustria locale e da Luigi Salvatori, che ne è appunto il presidente che abbiamo più volte citato durante le nostre cronache legate proprio al tentativo di trasformazione in aeroporto intercontinentale dell'aeroporto di media capacità attuale di Peretola, che annunciano una grande manifestazione per il sì. Questo è il titolo della Nazione, Nuova Pista, una grande manifestazione per il sì. A maggio chiamate a raccolta non solo categorie economiche, ma anche tassisti, artigiani, operai e studenti. Diciamo, riassumendo senza leggere l'articolo, la volontà da parte appunto di tutto quel milieu di forze economiche essenzialmente, Confindustria, Camera di Commercio, Confcommercio e alcuni decisori politici, tra cui spiccano i nomi di Carrai, di Renzi e di Nardella, che appunto organizzarono già a dicembre del 2017 una manifestazione che ho citato fino alla nausea, ma che è per forza di cose rappresentativa di quello che è un cosiddetto fronte del sì, manifestarono di fronte a Peretola, ritornano a manifestare in risposta essenzialmente alla presentazione pubblica dei ricorsi al TAR, che sono stati impugnati dai 7 comuni della Piana Fiorentina e anche del ricorso Unipol. C'è nello stesso giorno e nella stessa paginata della Nazione la notizia appunto che la Unipol in realtà, da soggetto economico qual è che non tutela nessun interesse se non il proprio, in realtà sembra che abbiano trovato un accordo e che abbiano già siglato diciamo un precontrattuale per fare sì che la Toscana Aeroporti, guidata come sappiamo dalla componente privata Corporación América del argentino Eurnekian, Eduardo di nome e Eurnekian di cognome, compri anche i terreni della Unipol per agevolare, facilitare e sveltire la possibilità che la Mercafir venga spostata nella zona, dell'attuale aeroporto, che la Cittadella Viola, tanto sognata e agognata da Nardella, venga collocata nei locali attuali della Mercafir, cioè a Novoli. E che appunto i soldi e la capacità imprenditoriale di Toscana Aeroporti e di Corporación America possano condizionare i tempi e le decisioni di una progettazione territoriale che ricordiamo non spetta solo a Firenze, come anche i sindaci della Piana hanno indicato e preso un minimo di coraggio impugnando i ricorsi. Sì, quindi questo fronte del sì, che pensa in un modo o nell'altro di rivolgersi a una intera comunità cittadina, pensano di parlare a nome di Firenze, a nome della Toscana addirittura, e vivono come un assedio e come un golpe ai loro interessi, i ricorsi impugnati e a maggior ragione i tentativi di auto-organizzazione degli abitanti, dei cittadini che in questi anni hanno manifestato in più forme l'opposizione al progetto di nuovo aeroporto, pensano di fare una manifestazione. In questo articolo di Repubblica non è ancora certa la data, nei giorni successivi viene chiarita, in altre uscite, sembra che sarà lunedì 7 di maggio al Palaffari. Ovviamente, interessante, ma per forza di cose ci torneremo, è anche l'autorappresentazione di questi soggetti, cioè Confindustria, Confcommercio e Camera di Commercio, per prenderle solo come esempio, poi abbiamo Ferragamo, abbiamo Salvatore, abbiamo Bassilichi, abbiamo le più grosse aziende del territorio si autorappresentano come movimento dal basso. Questo è veramente interessante, così come riflessione sui linguaggi, sulle forme della, diciamo, della politica, perché comunque questi fanno politica, se politica la intendiamo come arte o scienza della trasformazione dei rapporti di forza tra le classi, questi fanno assolutamente lotta politica dall'alto, e vediamo quanto saranno capaci di farla, vediamo soprattutto, sarà interessante vedere quali pezzi della società dal basso, intesa come società, diciamo, attraversata da contraddizioni verticali di classe, quindi tra chi sta sopra e chi sta sotto, vediamo se davvero abboccheranno qualche operaio o qualche studente, se non portato, ricattato dall'azienda per la quale lavora, alla partecipazione di questa manifestazione, sulla quale probabilmente come movimento e come abitanti auto-organizzati dovremmo insomma non farla passare sotto silenzio come data. Per oggi diciamo che abbiamo fatto, per questa settimana chiudiamola così. Un salutone, un pugno chiuso a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, ricordandovi che ci ascoltate in onde media alla frequenza dell'1359, in streaming il lunedì alle 15:30, le repliche tutti i giorni fino al venerdì sempre alle 15:30, oppure vi scaricate il podcast e lo ascoltate solo ed esclusivamente in bicicletta. Ciao ciao!